Voglio essere controllato dalla mattina alla sera. Stiamo facendo la cura, Ludovico. Scusatelo. Stoppa. Cos'è? Stoppa. Cos'è il Green Pass?